Gesù e Maria. Leggo nella Bibbia in Giovanni capitolo 19 versetti 25 a 27. Presso la croce di Gesù stavano sua madre e la sorella di sua madre, Maria di Cleopa e Maria Maddalena. Gesù dunque, vedendo sua madre e presso di lei il discepolo che egli amava, disse a sua madre: «Donna, ecco tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre». E da quel momento il discepolo la prese in casa sua. Tutti ormai si erano allontanati da Gesù. Mentre i soldati si dividevano le sue vesti e si giocavano a sorte la sua tunica, solo un piccolo gruppo era rimasto abbastanza vicino a Gesù da potergli parlare. C'era un ragazzo, Giovanni, e alcune donne tra le quali spicca la mamma di Gesù, Maria, una donna alla quale fin dai primi giorni dopo il parto era stato predetto che una spada le avrebbe trafitto l'anima, ed ora quella profezia si stava avverando. C'è molto riserbo nei Vangeli sulla presenza di Maria alla croce. Non ci sono state trasmesse le sue parole e solo l'apostolo Giovanni riporta questo episodio, essendo anche coinvolto personalmente. Ma è un episodio importante che ci fa riflettere su come Gesù dimostrò la sua umanità fino all'ultimo momento, preoccupandosi per sua madre. Maria, che nei secoli successivi sarebbe diventata oggetto di venerazione per molti, benché nella Bibbia non si trovi nessuna indicazione in proposito, appare in questo brano come una donna semplice che stava perdendo il figlio che tanto aveva amato. Questa donna aveva già perso il marito, altrimenti Gesù non si sarebbe preoccupato di affidarla a Giovanni. E ora stava perdendo il suo primogenito. Quale tristezza doveva albergare nel suo cuore! Gesù non affidò sua madre ai suoi fratelli, gli altri figli di Maria, i quali fino a quel momento non avevano creduto in lui. Vedi in Giovanni 7,5 dove è scritto: «Poiché neppure i suoi fratelli credevano in lui». E neanche ad altri parenti. Ma chiese a Giovanni, il discepolo che Gesù amava, di prendersi cura di lei. Giovanni non esitò a prenderla in casa con sé, prendendosi cura di lei come una madre. Anche mentre si trovava sulla croce, negli ultimi istanti prima di rendere lo spirito, Gesù si preoccupò per gli altri, per i suoi cari, in particolare per sua madre. Il rispetto per i genitori era di fondamentale importanza per un ebreo, e Gesù si dimostrò perfetto nella sua obbedienza a Dio e alle sue leggi fino all'ultimo respiro. Il docetismo è un'eresia che a partire dai primi secoli avanti Cristo espresse la convinzione che le sofferenze e l'umanità di Gesù Cristo fossero apparenti e non reali. Ma la falsità di tale dottrina è evidente quando leggiamo brani come questo. Infatti, nonostante la grande sofferenza, Gesù sulla croce si preoccupa per sua madre, mostrando grande amore per quella donna ebrea che lo aveva partorito, cresciuto, amato. È un'immagine bellissima. Gesù e Maria, un figlio e sua madre, colei che Dio aveva scelto affinché lo portasse in grembo, uniti da un grande amore, reale, tangibile. Colui che era stato crocifisso proprio perché accusato di farsi uguale a Dio, colui che diceva «Io e il Padre siamo uno», mostrò fino all'ultimo di essere anche perfetto uomo. Grande è il mistero dell'incarnazione.